Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Mentre l'uomo di latta stava costruendo una scala a pioli con il legno della foresta, Dorothy si mise a dormire, perché la lunga camminata l'aveva stancata. Anche il leone si addormentò e Toto si sdraiò accanto a lui. Lo spaventapasseri osservava l'uomo di latta al lavoro e gli disse: «Non riesco a capire perché ci sia un muro e di cosa sia fatto». «Lascia riposare il tuo cervello e non pensare al muro», rispose l'uomo di latta. «Quando l'avremo scavalcato, sapremo cosa c'è dall'altra parte». La scala fu presto finita. Sembrava fragile, ma l'uomo di latta era sicuro che fosse robusta e che sarebbero riusciti ad usarla. Lo spaventapasseri svegliò Dorothy e il leone e Toto e disse loro che la scala era pronta. Si arrampicò per primo, ma era un'impresa così ardua per lui che Dorothy dovette stargli dietro per evitare che cadesse. Quando riuscì a guardare oltre il muro, disse: «Oh cielo!» «Va avanti!» gli ingiunse Dorothy. Così lo spaventapasseri salì ancora più su e si sedette in cima al muro e toccò a Dorothy guardare oltre ed esclamare: «Oh cielo!» proprio come aveva fatto lo spaventapasseri. Poi salì Toto e si mise immediatamente ad abbaiare, ma Dorothy gli disse di stare zitto. Quindi toccò al leone e infine all'uomo di latta, ma entrambi esclamarono «Oh cielo!» non appena guardarono oltre il muro. Quando tutti furono seduti in fila lassù, volsero lo sguardo in basso e videro una cosa molto strana. Dinanzi a loro c'era un'enorme distesa di pavimento liscio e lucido e bianco come il fondo di un piatto, con molte casette interamente di porcellana di svariati colori vivaci e piccolissime. La più grande non arrivava neanche alla vita di Dorothy. C'erano anche molti carinissimi fienili delimitati da steccati di porcellana e divisi in gruppetti numerose mucche, pecore e cavalli e maiali e polli, tutti di porcellana. Ma la cosa più strana di tutte erano gli abitanti di questo assurdo paese. Mungitrici e pastorelle con corsetti dai colori vivaci e gonne maculate d'oro, e principesse con bellissimi abiti d'argento, d'oro e viola, e pastori con pantaloni a metà ginocchio a righe rosa e blu e gialle e lacci d'oro sulle scarpe, e principi con corone piene di gioielli con mantelli d'ermellino e gemelli di seta, e buffissimi clown con vestiti a balze, pomelli rossi sulle guance e lunghi cappelli appuntiti. E, cosa ancor più strana, tutti quanti interamente di porcellana, compresi i loro vestiti, e talmente piccoli che il più grande non superava il ginocchio di Dorothy. Inizialmente nessuno li notò, tranne un cagnolino di porcellana viola con la testa extra grande, che si avvicinò al muro e abbaiò nella loro direzione con una vocina esile e poi scappò via. «Come facciamo a scendere?» domandò Dorothy. La scala era troppo pesante e non riuscivano a tirarla su, così lo spaventapasseri saltò giù dal muro e gli altri saltarono sopra di lui per evitare di farsi male sul pavimento. Naturalmente fecero attenzione a non atterrargli in testa per non riempirsi i piedi di spilli. Una volta a terra rialzarono lo spaventapasseri, il cui corpo si era quasi completamente appiattito, e lo rimisero in forma. «Dobbiamo attraversare questo strano paese», disse Dorothy, «perché non sarebbe saggio abbandonare la strada che porta verso sud». «Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Girl, girl, girl. me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl. Of girl who put you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Entrando nel paese della gente di porcellana, per prima cosa videro una contadina di porcellana che mungeva una mucca di porcellana. Quando si avvicinarono, la mucca diede un calcio improvviso allo sgabello, facendolo cadere sul pavimento di porcellana insieme al secchio e anche alla lattaia con un grandissimo fracasso. Dorothy rimase senza parole vedendo che la mucca si era rotta una gamba, il secchio era ridotto in cocci e la povera lattaia aveva un'ammaccatura sul gomito sinistro. «Ecco!» urlò arrabbiata la lattaia. «Visto che cosa avete fatto? La mia mucca si è rotta una gamba e adesso devo portarla dalla giusta tutto per fargliela incollare di nuovo. Ma cosa vi è venuto in mente di venire qui a spaventarmi la mucca?» «Mi dispiace molto», rispose Dorothy, «ti prego di scusarci». Ma l'adorabile lattaia era così arrabbiata che non rispose nemmeno. Immusonita raccolse la gamba e condusse via la mucca che zoppicava. Allontanandosi, continuava a lanciare sguardi di rimprovero ai goffi stranieri, mentre si stringeva il gomito con l'ammaccatura. L'incidente addolorò alquanto Dorothy. «Dobbiamo stare molto attenti qui», disse l'uomo di latta dal buon cuore, «o potremmo causare a queste adorabili persone dei danni a cui non potrebbero più porre rimedio». Poco più avanti Dorothy vide una giovane principessa vestita con un'eleganza sublime, la quale non appena si accorse degli stranieri esitò un attimo e poi scappò via. Dorothy, che voleva guardarla bene, la rincorse. Ma la ragazza di porcellana gridò: «Non mi rincorrere, non mi rincorrere!» Aveva una voce talmente impaurita che Dorothy si fermò e disse: «Perché no?» «Perché?» rispose la principessa fermandosi anche lei, ma a una distanza di sicurezza. «Se corro potrei cadere e rompermi!» «E non potresti essere aggiustata?» domandò la ragazzina. «Oh, certo, ma sai, non si è molto graziosi dopo essere stati rincollati», rispose la principessa. «Immagino di no», disse Dorothy. «C'è un certo signor Burla, uno dei nostri pagliacci», continuò la ragazza di porcellana, «che cerca sempre di stare in equilibrio sulla testa. Si è rotto talmente tante volte che è stato rincollato in 100 posti e non è affatto carino. Lo potrete constatare voi stessi perché sta arrivando». Infatti si avvicinava a loro un allegrissimo pagliaccetto e Dorothy notò che, nonostante i suoi bei vestiti rossi, gialli e verdi, era completamente ricoperto di crepe che si allungavano in ogni direzione ed era evidentemente stato incollato moltissime volte. Il pagliaccio si mise le mani in tasca e, dopo essersi gonfiato le guance e aver fatto loro un cenno, disse con aria provocante: «Mia cara signora, cosa guarda ancora? Il povero signor Burlone? Siete frigida e anche rigida, come foste un bastone». «Taccia, signore!» disse la principessa. «Non vede che questi sono stranieri e vanno trattati con rispetto?» «Beh, con riverenza a mia credenza», dichiarò il pagliaccio mettendosi in equilibrio sulla testa. «Non farci caso», disse la principessa a Dorothy. «Ha molte crepe in testa e per questo è così sciocco». «Non mi dà alcun fastidio», disse Dorothy. «Ma tu sei così bella», continuò, «che sono sicura di poterti volere molto bene. Posso portarti con me in Kansas e metterti sulla mensola della zia Em. Ti potrei trasportare nel cestino». «Mi renderebbe molto infelice», rispose la principessa di porcellana. Vedi, qui nel nostro paese viviamo tutti contenti e possiamo parlare e muoverci come e quando ci pare e piace. Ma se veniamo portati via, i nostri arti si immobilizzano e possiamo solo stare dritti e farci ammirare. Naturalmente non ci si aspetta altro da noi quando siamo sulle mensole, sulle credenze e sul tavolo degli studi. Ma per noi la vita è molto più bella qui, nel nostro paese. «Non ti renderei infelice per tutto l'oro del mondo!» esclamò Dorothy. «Allora ti saluterò e basta!» «Addio!» rispose la principessa. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Attraversarono il resto del paese di porcellana con molta attenzione. Gli animaletti e le persone si scansavano vedendoli, pensando che gli stranieri potessero romperli, e circa un'ora dopo i viaggiatori, giunti dall'altra parte del paese, si trovarono davanti un altro muro di porcellana. Non era alto quanto il primo, comunque, e mettendosi in piedi sulla schiena del leone riuscirono ad arrivare in cima. Poi il leone si accucciò e saltò sul muro, ma mentre saltava colpì con la coda una chiesa di porcellana, riducendola in 1000 pezzi. «Che peccato!» disse Dorothy. «Ma siamo stati bravi a rompere soltanto la gamba di una mucca e una chiesa. Potevamo fare molti più danni. Sono tutti così fragili!» «È vero!» disse lo spaventapasseri. «E ringrazio il cielo di essere fatto di paglia e di non rompermi facilmente. C'è di peggio che essere uno spaventapasseri!» Will say the only words I know that you understand, my mission. Scesi dal muro di porcellana, i viaggiatori si trovarono in un paese non proprio gradevole. Ovunque c'erano fanghiglia, paludi e acquitrini ricoperti d'erba alta e putrida. Camminare era difficile, perché si inciampava nelle buche fangose nascoste dall'erba fitta. Ma comunque, facendo molta attenzione, avanzarono senza farsi del male, e alla fine si trovarono su un terreno più solido. Ma lì la campagna sembrava più selvaggia che mai. E dopo una lunga e faticosa camminata nel sottobosco, entrarono in un'altra foresta, dove c'erano gli alberi più grandi e più vecchi che avessero mai visto. «Questa foresta è una vera meraviglia», dichiarò il leone, dandosi un'occhiata in giro. «Non ho mai visto un posto più bello». «Sembra deprimente», disse lo spaventapasseri. «Nemmeno un po'», rispose il leone. «Mi piacerebbe passarci tutta la vita. Senti quanto sono soffici le foglie secche sotto i piedi, e guarda tutto il muschio verde e ricco attaccato a quei vecchi alberi. Di sicuro non c'è dimora migliore per un animale selvatico». «Forse ci sono animali selvatici nella foresta anche adesso», disse Dorothy. «Immagino di sì», rispose il leone, «ma non ne ho ancora visti in giro». Continuarono a camminare finché il buio divenne così fitto che non si poteva più proseguire. Dorothy, Toto e Leone si misero a dormire, mentre lo spaventapasseri e l'uomo di latta fecero la guardia, come sempre. Something in the way attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Seguente si rimisero in cammino. Dopo poco sentirono degli strani rumori che sembravano il ruggito di tanti animali selvatici. Toto guaì un tantino, ma nessun altro aveva paura e continuarono ad avanzare sul sentiero ben definito finché non giunsero a una specie di radura dove erano riuniti centinaia di animali di ogni tipo: tigri, elefanti, orsi, lupi, volpi e tutte le altre specie nella storia naturale, e Dorothy per un attimo ebbe paura. Ma il leone le spiegò che gli animali stavano facendo un'assemblea e a giudicare dal loro ringhiare e ruggire erano veramente nei guai. Mentre parlava, alcuni animali si accorsero di lui e all'improvviso tutti tacquero come per magia. Si avvicinò alla più grande delle tigri e fece un inchino al leone dicendo: «Benvenuto, o re delle bestie! Sei arrivato giusto in tempo per combattere il nostro nemico e riportare la pace fra tutti gli animali della foresta!» «Qual è il vostro problema?» domandò calmo il leone. «Viviamo tutti nel terrore», rispose la tigre, «di un feroce nemico che si è trasferito nella foresta da poco. È un mostro tremendo, simile a un ragno gigante, con un corpo grande come quello di un elefante e delle zampe lunghe come tronchi d'albero. Ne ha 8 di queste zampe e quando si aggira nella foresta prende un animale con una zampa e se lo porta alla bocca e lo mangia come un ragno o una mosca. Nessuno è al sicuro finché vive e abbiamo convocato questa assemblea per decidere cosa fare quando sei arrivato tu.» Il leone pensò per un momento. «Ci sono altri leoni in questa foresta?» domandò. «No, ce n'erano, ma il mostro li ha divorati tutti. Comunque non ce ne sono mai stati di grandi e coraggiosi come te. Se ucciderò il vostro nemico, vi inchinerete dinanzi a me e mi obbedirete come si deve al re della foresta?» chiese il leone. «Lo faremo volentieri», rispose la tigre, e tutte le altre bestie ruggirono forte: «Lo faremo!» «Dov'è questo vostro grande ragno adesso?» domandò il leone. «Là, tra le querce», disse la tigre indicandogliele con la zampa anteriore. «Abbiate cura dei miei amici», disse il leone, «e andrò a combatterlo subito.» Salutò i suoi amici e andò, fiero, a ingaggiare battaglia con il nemico. John was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take out to the pictures, John, but as she's getting ready. tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so but when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Maxwell stands alone, painting testimonial pictures. Rose and Valerie screaming from the gallery say he must go free. The judge does not agree and he tells them so. From behind. Il ragnone stava dormendo quando il leone lo trovò, ed era talmente brutto che il suo nemico arricciò il naso, disgustato. Le zampe erano lunghe come aveva detto la tigre, e il corpo ricoperto da una ruvida peluria nera. Aveva una bocca enorme, con una fila di denti aguzzi lunghi un piede. Ma la testa si congiungeva al corpo grassotto tramite un collo esile come un vitino di vespa. Questo gli diede l'idea di attaccare proprio lì la creatura, e sapendo che era meglio combatterla mentre dormiva, fece un balzo atterrando direttamente sulla schiena del mostro. Poi, con un colpo della sua pesante zampa, armata di artigli affilati, staccò la testa del ragno dal corpo. Saltato giù, lo tenne sotto tiro finché le lunghe zampe non smisero di muoversi. E allora seppe con certezza che era morto. Il leone tornò alla radura dove lo attendevano gli animali della foresta e disse fiero: «Non avete più nulla da temere». Gli animali fecero un profondo inchino al leone loro re, e lui promise di tornare per regnare su di essi non appena Dorothy fosse partita per il Kansas. Alba Rohrwacher ha letto Il Mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.